al turbine improvviso. Il cielo ingombra e quel sorcio ridombra e ricompito in radio in faccia al giorno pur della notte di sua luce ascolta.